in diretta su CRM Happy Radio Déjà Vu con Mary Catalano. James Morrison canta Please Don't Stop the Rain, ovvero per favore non fermate la pioggia, noi ringraziamo Dio che oggi non piove. C'è un sole splendido che segna proprio le ore contate della primavera che sta per arrivare. Qualcuno mi dice stai zitta perché altrimenti cambia il tempo e si mette a piovere. Potrebbe anche succedere questa cosa qua. Oggi martedì 19 marzo, splendida giornata per il giorno appunto dedicato ai papà. Oggi è la festa dei papà, non dimenticatelo, vi raccomando, coccolatevi questi papà. E naturalmente auguriamo un buon onomastico a tutti i Giuseppe che sono all'ascolto e a tutti Giuseppina, Giusi, eccetera eccetera. Buongiorno e bentrovati. Dunque siete all'interno di Déjà Vu insieme a Mary Catalano qui su CRM Happy Radio, oggi insieme fino a mezzogiorno come accade sempre il martedì e il giovedì, e tanta bella musica naturalmente che anche voi potete segnalarci ai nostri numeri che sono il 335 56 37 251, il numero per gli SMS, e lo 0921 92 32 92

un regalo al proprio padre. La figura del padre di Gesù, padre esemplare e marito devoto nella tradizione popolare, protegge anche più sfortunati e la cosa ha dato vita a diverse usanze che si sono tramandate nel tempo nelle varie regioni del nostro paese. Molti anni fa era un giorno festivo a tutti gli effetti, ora invece non lo è più, ma la festa del papà resta comunque sempre molto attiva e molti bambini oggi preparano a scuola o a casa, anche con l'aiuto della mamma, lavoretti fatti a mano, biglietti di auguri, poesie, filastrocche o semplicemente pensano a qualche regalino, qualche pacchettino pieno di cioccolatini, perché no, comunque sia sempre un pensiero per i papà. Ok, andiamo avanti con il nostro appuntamento, c'è la musica di Franco Battiato che è tornato di grande attualità con la sua nuova musica, col suo nuovo lavoro discografico, e oggi sentiamo il singolo Testamento. Lascio agli eredi l'imparzialità, la volontà di crescere e capire, uno sguardo feroce e indulgente per non offendere inutilmente. Lascio i miei esercizi sulla respirazione, Cristo nei Vangeli parla di reincarnazione. Lascio agli amici gli anni felici delle più audaci riflessioni, la libertà reciproca di non avere legami. E mi piaceva tutto della mia vita mortale, anche l'odore che davano gli asparagi all'urina. We were never born. Il tempo perduto, chissà perché, non si fa mai riprendere. I linguaggi urbani si intrecciano e si confondono nel quotidiano. Fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. L'idea del visibile alletta, la mia speranza aspetta. Appese a rami spogli, gocce di pioggia si staccano con lentezza, mentre una gazza in cima ad un cipresso guarda. Peccato che io non sappia volare, ma le oscure cadute nel buio mi hanno insegnato a risalire. E mi piaceva tutto della mia vita mortale. Noi non siamo mai morti e non siamo mai nati. Sempre di facile ascolto Franco Battiato, ma comunque sicuramente sempre sulla cresta dell'onda con i suoi lavori che sono molto interessanti. Questo è l'ultimo singolo che si chiama Testamento e dopo la parentesi europea di Apriti Sesamo Tour 2013, Franco Battiato tornerà finalmente in Sicilia e esattamente il 6 maggio al Teatro Vincenzo Bellini di Catania e poi l'8 maggio sarà al Teatro Vittorio Emanuele di Messina e il 12 maggio al Teatro Politeama di Palermo con Apriti Sesamo, che è prodotto da International Music and Arts ed è organizzato in Sicilia dall'Associazione Culturale Woodstock con la direzione artistica di Giuseppe Rappisarda. Il nuovo tour 2013 si muove sulle tracce dell'ultimo disco che si chiama appunto Apriti Sesamo e dal quale questa mattina abbiamo estratto appunto Testamento che abbiamo già sentito. Arriva la voce di Alicia Keys, Brand New Me, su CRM Happy Radio all'interno di Deja Vu. Siete sempre con Mary Catalano, ancora buongiorno.

musica di CRM Radio, quella che state ascoltando. Siete insieme a Mary Catalano all'interno di Deja Vu anche per questo martedì del 19 di marzo. Ancora auguri a tutti i papà all'ascolto, quelli che magari si sono messi in sintonia soltanto in questo momento. È arrivato il momento, scusate il gioco di parole, di Biagio Antonacci. I miei gallani ricordi nel mezzo dell'oceano, spunti come un ramo secco, il verde immenso a maggio. Nelle cose che ho preso e che ho cambiato, ci sei, ci resterai. Un ti amo salvato andrebbe invece sempre cancellato, così come il tuo bel nome che ancora suona forte. Via regali, via dettagli, cornici solo vuote. Se bastasse davvero tutto questo, sarebbe tutto a posto. Ho paura che a questo giro invece dimenticarti è poco. Dimenticarti sarà per l'altra vita, questa è già piena di corsi e di ricorsi, di capelli tuoi tanti che ho raccolto in casa e per la strada, di promesse che ho mantenuto solo quando era troppo tardi. La tua voce è un suono lungo come una nave in porto, l'espressione del tuo volto è chiara ma non troppo. Questa lunga convalescenza spero mi renderà più forte, ma se adesso qualcosa mi toccasse troverebbe il vuoto. Dimenticarti è poco e non ha senso, niente mi sposta dal punto che mi hai dato. Sono troppe le cose a cui di colpo hai tolto luce e fiato, sono pezzi di vita che a fatica avevo costruito. Grazie di tutto, eternamente grazie, meglio aver male che essere un fantasma. Grazie per i tuoi giorni giovani che a me hai dedicato, grazie per i tuoi fronte contro fronte. Dimenticarti è poco, dimenticarti è poco. Biagio Antonacci all'interno della scaletta musicale di Deja Vu. Stavo leggendo una notizia che riguarda il cibo, l'alimentazione. Vi immaginate di non andare più al supermercato e non fare più la spesa, non comprare più niente, non cucinare più, risparmiare tanto tempo e nutrirsi soltanto con un beverone ricco di tutti gli ingredienti per stare bene, per alimentarsi in maniera corretta? Vi immaginate una cosa del genere? Ma che piacere ci sarebbe! Certo, sicuramente farebbe risparmiare tanto tempo, però a quanto pare si potrebbe anche solo alimentarsi così, niente più cucina, addio ai manicaretti e anche al cibo. E questa sarebbe la scelta di un ragazzo programmatore informatico statunitense che ha deciso di darsi alla nutrizione studiandone i principi su libri e pagine web per mettere a punto un bibitone, fra virgolette, battezzato Soylent, contenente tutti i nutrienti di cui l'organismo ha bisogno per mantenersi in vita, pensate. Eliminando pane, pasta e qualsiasi altro alimento, il ragazzo ha fatto venire meno anche la necessità di andare a fare la spesa, come dicevamo prima, un risparmio di tempo non indifferente che di sicuro non utilizzerà per rilassarsi durante cene fra amici, dato che i suoi pasti si sono ridotti a due bicchieroni del suo intruglio a settimana. Certo, non c'è più piacere a vivere così, però mi sa, eh? Comunque, nonostante sia lo stesso Ryan Hart, dice di chiamarsi così, si chiama così, ad ammettere sul suo blog che quello della scienza alimentare è un campo complicato, semplicemente per perché troppi fattori hanno un ruolo e difficilmente si possono cogliere affermazioni precise, il ragazzo sarebbe riuscito ad identificare tutti i nutrienti necessari per l'organismo, vitamine, minerali, aminoacidi essenziali, eccetera, eccetera, e cui ha aggiunto altre sostanze varie come il ginseng, l'alfa, il carotene, insomma, il tutto cercando di seguire le raccomandazioni nutrizionali del Food and Drugs Administration. A detta di questo ragazzo, il miscuglio avrebbe anche un buon sapore e non influenzerebbe negativamente né i valori ematici né le prestazioni fisiche. Per quanto riguarda la mente, il ragazzo dice di sentirsi molto perspicace, ma dovremmo provare questa cosa per vedere se effettivamente ci sentiamo bene dopo aver preso questo beverone qua. E però verrebbero meno tantissimi altri fattori, che sono anche la convivenza con altre persone, che ne so, anche a tavola è un momento piacevole per condividere la vita insieme agli altri, mangiare, no? Quante volte organizziamo cene, pranzi, scampagnate proprio per stare, per il gusto di stare con gli amici mangiando tutti quanti insieme in allegria. Se venisse meno questa cosa, che piacere ci sarebbe? E allora questo beverone lo lasciamo bere a lui che l'ha inventato, che ne dite? In ogni istante sei tutto ciò che manca, tutto quel che ho, un amore grande disteso tra le impronte. Thank you. Ray torna alla ribalta con questo bellissimo successo Nei fiori infranti. Sì, perché è già un successo e poi la sua voce è sempre molto bella da ascoltare, molto particolare, come lo è lei stessa. Arrivano i Muse adesso con Supremacy. Déjà vu su CRM Happy Radio. To the left, to the left. To the left, to the left. wish you were my for a second, get to thinking you're irreplaceable. Irreplaceable, fantastica questa canzone di Beyoncé che torna su internet. Trovate un nuovo singolo pubblicato proprio da lei, una nuova canzone ancora non pubblicata da nessun'altra parte, lo ha fatto solo sulla rete. Questo nuovo brano si chiama Bow Down I Be Non, non si sa ancora se il pezzo sarà il nuovo singolo della cantante americana, ma la cosa certa è che la moglie di Jay-Z ha voglia di fare musica nuova e diversa da quella prodotta finora. In questo brano infatti Beyoncé adotta un sound molto aggressivo, frutto di una base elettronica ricca di campionamenti e di un testo sembra molto graffiante. Potete sentirlo su internet se volete, cercate Bow Down I Be Non di Beyoncé. Chissà se l'ex Destiny Child proporrà dal vivo questa canzone nel concerto che terrà il prossimo 18 maggio al Mediolanum Forum di Milano, in quella che sarà l'unica imperdibile tappa italiana del suo The Mr. Carter Show, quindi l'unica tappa italiana per Beyoncé proprio a Milano il 18 maggio al Mediolanum Forum di Milano. Perfetto, andiamo avanti con il nostro appuntamento. C'è la musica italiana di Marco Mengoni. Non poteva assolutamente mancare la canzone tormento di questo periodo, l'essenziale per voi. Ancora un buon ascolto. Sostengono gli eroi se il gioco si fa duro da giocare, beati loro poi se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi di far la guerra, ambire poi alla pace, e nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione, l'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che la fossero poche stupide. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. Mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini. 2013 ha tutte le prerogative per essere l'anno della svolta per Marco Mengoni, che stamattina abbiamo sentito e che oggi pubblica il nuovo album che si chiama Pronto a Correre, ed è un inizio davvero importante per lui per quanto riguarda il 2013. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo, adesso arriva con questo nuovo lavoro discografico ed è quanto dire. Dunque, un lavoro importante, attesissimo dopo il successo al Festival. Il nuovo, anche il produttore Michele Canova, nuovi musicisti, autori, insomma tutto nuovo. E a sua volta, allievo di una scuola d'arte, Mengoni ha presentato il CD circondato da giovani artisti dell'Accademia di Brera, che si sono esibiti in una prova di action painting. E quindi attendiamo con ansia questo lavoro intero per quanto riguarda Marco Mengoni, che ci sta veramente tenendo compagnia con questo singolo in questo periodo, appunto L'Essenziale, che è molto segnalato da parte vostra. Ai nostri numeri magici, che torno a ricordare, sono sempre il 335-5637-251, il numero per gli sms, nonché lo 0921-92-32-99, il numero fisso. Perfetto, andiamo avanti con il nostro appuntamento. Salutiamo anche tutti gli internettiani che ci ascoltano nel nostro sito in streaming, www.crmpiredi.it. Semplice che c'è, sono l'uomo giusto per te. Sono l'uomo di questa sera, sono l'uomo di primavera. Facciamo bene stare insieme stasera, facciamo bene perché è sabato sera. Facciamo bene, facciamo perché c'è l'occasione e l'atmosfera. Sì, facciamo bene perché siamo vivi, domani chi lo sa. Sabato sera, facciamo bene, facciamo perché è l'occasione e c'è l'atmosfera. Vasco Rossi con l'uomo più semplice che c'è. E un'ultima riflessione: Vasco Rossi la riserva al suo stato di salute e alla malattia. Ha detto che ha avuto questo periodo di pausa in cui è morto praticamente e poi si è risvegliato ancora vivo. E poi dice: continuo a svegliarmi al mattino e dico sono ancora vivo. Quindi in questo periodo ho avuto modo di pensare, leggere e riflettere e mi è tornata questa curiosità per la vita, e questo è importante. E dice anche: quando si arriva vicini alla morte si torna ad avere curiosità. Io ne avevo un po' perso in questo senso, ero stanco e sinceramente sono arrivato più volte nella vita a pensare che fosse finita, e invece dopo tutto quello che gli è successo, i problemi di salute eccetera eccetera, si è ricreduto e adesso ama la vita più che mai e la vuole vivere in modo più semplice e sicuramente più piacevole, perché come si sa la felicità proprio sta nelle cose semplici. Come questa canzone di Rihanna che sentiamo subito, si chiama Stay, semplice ma fantastica. Ancora un buon ascolto e soprattutto un buongiorno a tutti voi che siete insieme a noi di CRM Happy Radio. Déjà vu su CRM Happy Radio. I got a thing to Cause I gotta have faith. Bellissimo questo singolo degli anni 80 di George Michael, Faith, Fede. Siamo sempre su CRM Happy Radio, siete sempre insieme a Mary Catalano all'interno di Deja Vu, anche per questo martedì del 19 di marzo, bello pieno di sole. Ancora auguri a tutti i papà all'ascolto, soltanto da qualche minuto. E parliamo del fatto che ci potete seguire anche in streaming al nostro sito, il www.crmhappyradio.it. Seguite anche, se volete, le repliche in podcast. E poi c'è la nostra pagina Facebook, non dimenticate che se non siete nostri fan, se volete essere nostri amici, basta cercarci su Facebook CRM Happy Radio, cliccare mi piace, il gioco è fatto. A proposito di Facebook, se le mamme chiedono l'amicizia ai figli su Facebook, è senz'altro per controllarli, è un modo abbastanza efficace per capire un po' le sensazioni, insomma i pensieri e le emozioni. In qualche modo una parte almeno di queste cose si riescono ad evincere su Facebook, e quindi le mamme chiedono la fanno la richiesta d'amicizia ai propri figli, che spesso però rifiutano, pensate un po', la richiesta, non accettano l'amicizia su Facebook della mamma o del papà, pensate, proprio perché sanno che poi sarebbero controllati. Le mamme americane, soprattutto con un account sul social network, sono aumentate dal 2010 ad oggi davvero tantissimo, fino al 72%. Dei genitori su Facebook il 92% è amico del proprio figlio, mentre il 38% degli adolescenti rifiuta la richiesta, ma il 16% che è costretto ad accettare, appunto accetta, è un genitore su due ammette di essere iscritto proprio per controllare i figli, ed è davvero un modo efficace. Tant'è che molti ragazzi adesso optano per altri social network, come Twitter, come Instagram e tanti altri, che ormai siamo invasi da social network. I più famosi sono Facebook, Twitter, eccetera eccetera, però ce ne sono tanti altri. E va bene, andiamo avanti con il nostro appuntamento. Noi, Lenny Kravitz arriva col nuovo singolo che si chiama I Can Be With You su CRM Happy Radio all'interno di Deja Vu. Fa pure rima, guarda un po'. It in my eyes. Lenny Kravitz con I Can Be Without You, il nuovo singolo per lui, e non sarà lui l'attore che interpreterà il film che riguarda Marvin Gaye, non sarà lui, ne abbiamo già sentito parlare da tempo e si è parlato tantissimo anche per quanto riguarda il film su Marvin Gaye, se ne è parlato circa 5 anni or sono e finalmente alla fine del mese inizieranno le riprese di questo film dedicato a Marvin Gaye e ad interpretare l'icona stella della solo music non sarà come precedentemente annunciato Lenny Kravitz. Il posto del rocker e attore è stato affidato a Jesse Lee Martin. Ad opporsi è stato Marvin Gaye III, il figlio di Marvin Gaye, l'icona stella del soul music a cui sta per essere dedicato un film, e ha ritenuto che Lenny Kravitz non è adeguato ad interpretare l'indimenticabile artista. Il ruolo è stato assegnato dunque a Jesse Lee Martin, anzi riassegnato. Negli anni 90 ha visto nella serie TV All McBeal e Law and Order i due volti della giustizia. Nel 2008 l'attore nel frattempo si è distinto pure in teatro, quindi insomma è stato scelto lui, che sembra essere più bravo di Lenny Kravitz e più appropriato per questo ruolo, a detta del figlio di Marvin Gaye. Musica italiana, Francesco De Gregori, Guarda che non sono io. Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto, che ti prende la mano e che ti asciuga il pianto. Cammino per la strada, qualcuno mi vede e mi chiama per nome. Si ferma e mi ringrazia, vuole sapere qualcosa di una vecchia canzone. Ed io gli dico: scusami, però non so di cosa stai parlando. Sono qui con le mie buste della spesa, dove ti sto scappando. Se credi di conoscermi, non è un problema mio. E guarda che non sto scherzando, guarda come sta piovendo, guarda che ti stai bagnando, guarda che ti stai sbagliando, guarda che non sono io. Guarda che non sono io quello che mi somiglia, l'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia, il vagabondo sul vagone, la pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io la mia fotografia, che non vale niente e che ti porti via. Cammino per la strada, qualcuno mi vede e mi chiama per nome. Si ferma e vuol sapere, mi domanda qualcosa di una vecchia canzone.

fossi tu. Ho visto un sogno, sembrava vero, ci credo ancora e ancora spero. Lovers, love is all around. Lovers, love, it's all around. Stiamo ballando tra le rovine, sulle macerie, cercando amore. All around, love is all around. Love is, heck you, love is, it's all around. Love is, love, it's all around. It's all around. Love is love. Love is all around, l'amore è tutto intorno, almeno ce l'auguriamo, e a grande richiesta proprio oggi, martedì 19 marzo, va in onda su Rai 2 in seconda serata la replica del concerto La Saison Cubana tenutosi a L'Avana lo scorso dicembre per quanto riguarda Zucchero. Inoltre si profila un grande successo per il La Saison Cubana World Tour 2013 di Zucchero Sugar Fornaciari, che debutterà all'Arena di Verona il 30 aprile e in replica l'1 e il 2 maggio, già sold out ovviamente le prime due date, 30 aprile e 1 maggio, con oltre 30.000 biglietti venduti ad oggi, e sono disponibili ancora alcuni biglietti per la terza data, ovvero quella del 2 maggio. Per info, se volete, potete anche contattare lo 02 48 05 731. Intanto andiamo avanti col nostro appuntamento, ormai mancano 20 minuti alla fine di Déjà Vu per quanto riguarda oggi martedì 19 marzo. Arriva un grande successo di Sting, Fields of Gold. You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. She took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises like it, and there have been some that I've broken, but I swear in one day still left you walk in fields of gold. You walk in fields of gold. Thank you. children run as the sun goes down among the fields of gold. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. Fields of Gold, il singolo che abbiamo sentito by Sting, che ritorna nell'amata Italia cattolica esattamente il 29 luglio prossimo con il tour Back to the Bus, iniziato nel 2012, il live nel quale il cantautore riprende a suonare il basso in occasione dei suoi 25 anni di carriera da solista, e continua anche nel 2013 dopo essersi esibito in America, Europa, Sudafrica e Asia. Durante l'estate 2013 torna anche in Italia, come dicevamo, l'8 luglio in Veneto nella cornice dell'Arena di Verona, il 9 al Foro Italico di Roma e infine il 29 all'Arena Regina di Cattolica in provincia di Rimini. Ad affiancarlo nell'esecuzione dei suoi più grandi successi, la band è composta dallo storico chitarrista Dominic Miller, Vinnie Colaiuta alla batteria, David Sanchez alle tastiere e tanti altri musicisti, vocalist eccetera eccetera, e sono già disponibili i biglietti online per quanto riguarda Sting, che torna in Italia, che a quanto pare e il paese chiama davvero tantissimo. Ancora musica melodica di qualche tempo fa, questa volta un'altra grande voce, però questa volta tutta femminile, quella di Sade. La sentiamo con By Your Side. Thank you. di tuo padre e la sua malinconia, il silenzio senza tempo che pervade al tramonto la marea. Arriverai con la luna di settembre che verserà il suo latte dentro me e ti amerò come accade nelle favole per sempre. Ti aspetterò senza andar via, come fanno già le rondini nell'aria, nella terra mia che invecchia mai. Così celeste, celeste. Avrai libri, sandali e secchielli, luminosi amarcord. Saranno neri come i miei, i tuoi capelli. Lo so, volerai via verso l'isola lontana di una città, come ho fatto un giorno anch'io, amore mio, perché il sole può scordarsi della luna. Ti aspetterò. Canzone per Laura Pausini, cantata con tutti i sentimenti, visto che comunque era incinta nel periodo in cui è uscito questo singolo bellissimo, Celeste. Chiudiamo l'appuntamento con l'example. I've told too many girls that I love them. I've told too many girls that I want. So why am I sitting here all alone? You measure fun. I've called lost property too many times, and I can't live properly. A piece of me died. I wasn't aware the Mona Lisa cried. Maybe I remember my decent side. Wash the kisses off my neck and lock my past in a basement. I need to find your perfect replacement. left on the other side. We'll never know what we may find. I've called lost property too many times, and I can't live properly. A piece of me died. I wasn't aware the Mona Lisa cried. Maybe I remember my decent side. Wash the kisses off my neck and lock my past in a basement. I found your perfect replacement. Ed è già mezzogiorno, 2 ore musica insieme a Mary Catalano, e quindi con Deja Vu sono già trascorse. Il primo appuntamento della settimana si conclude oggi martedì 19 marzo. Ancora auguri a tutti i papà all'ascolto, godetevi questa giornata che è dedicata a voi, godetevi l'amore e l'affetto dei vostri figlioletti il più possibile, visto che oggi ne riceverete di più dato che è la festa del papà. Noi ci risentiamo giovedì prossimo sempre dalle 10 fino a mezzogiorno su CRM Happy Radio con Deja Vu. Mi raccomando, fate bravi, godetevi questa bella giornata e a risentirci al prossimo appuntamento sempre su CRM. Ciao!